Voilà. Buonasera a tutti e bentornati sulle frequenze di Railroad Radio Station. Questa è Uptown Rockers e come sempre al microfono il vostro MC di fiducia Drago DJ. Ancora non mi è passata l'influenza reggae di cui vi ho parlato la scorsa settimana e anche quest'oggi iniziamo la trasmissione con un pezzone veramente in levare. Sto parlando di Big Youth, il mitico Big Youth con il pezzo Salomon Gandhi. I can go anywhere and still be nowhere. Oh, oh. Cause anywhere couldn't be nowhere. So anywhere that you can go and that to be nowhere. Because Salomon Gandhi, he was born on a Monday, a Christian on a Tuesday, like the moon above. So we tell you about the thing about the Salomon, about the Salomon Gandhi. One thing I really wanna tell you, say that you do it on a Sunday, you're coming on a Monday. Tell you on a Thursday, you rub it on a Wednesday. You miss it on a Saturday, and coming right around to Sunday, you got to be the thing of all the Solomon of Monday. Tell you about the things I was really tell you about it like I never really. Yeah. But what I wanna run for? But I wouldn't run if you run to the rock to hide. If you run to and anywhere you wanna go. I tell you when I really wanna really tell you so. About the soul and on the way you're coming down on me, and that would be it. Tell you about the thing and on the way you're gonna. I could have a flock of me, but that would be Salomon Gandhi. So the thing I'll call a thing and on the ting a ting a ling a ling. So the little school bell ring, ting a ling, ting a ling, ting a ling a ling. Little children sing, and what a ting a ling a ling ling ding, ting a ling a ling dang ding, yeah, with a ting a ling a ling. I could go, and so you hear the school bell ring, ting a ling dang ding, ting a ling a ling a ding dang ding, ting a ling a ling a ding a ling a ling a ding dang. Big Youth per tutti i massicci della dancehall, ancora influenzati dai ritmi levare. Siccome fa molto freddo, guardiamo di riscaldarci con un altro pezzone reggae. Sto parlando di Horace Sandy, che già aveva prestato le sue corde vocali ai mitici Massive Attack. Sì, proprio loro. E qui lo troviamo proprio in un restyling dei Massive Attack con la mitica Skylarking. Questa è l'ottava puntata di Uptown Rockers, la nuova trasmissione di Railroad Radio Station, ultima puntata del 2010. A voi Skylarking, Mr. Horace Andy. Skylarking, la grande voce di Orazio su Melancholic, l'etichetta dei Massive Attack, pezzo datato 1996 dall'album omonimo, e mentre in sottofondo sentiamo ancora il flauto traverso direttamente da Memphis di Mr. Herbie Mann, adesso scendiamo dai Caraibi, scendiamo giù in Sud America e cambiamo genere, perché vi vado a presentare il prossimo pezzo, un mitico percussionista, un grandissimo percussionista che ha collaborato con Deodato ma anche con altri musicisti e producer sia funk, soul che di musica latina. Sto parlando di Ayrton Moreira qui con il pezzo The Happy People su Warner Bros. Ecco a voi, mitico Ayrton Moreira, restate sintonizzati su Uptown Rockers. Oh yeah, right. I just got back from Brazil. Or Brazil. You know, I was walking on the streets in Brazil and I saw this guy. He was beating this little drum. And it was a carnival time, man. And it was great. The guy was the samba himself. Then I said, hey, man, what is your name? And he said, my name is Samba. I wanna tell you about this samba, samba, samba, samba going samba lá. Down in Brazil in the carnaval. The happy people dance in the heavenly accord. Sud America, Brasile, questo era Airto, direttamente da una collezione privata gentilmente concessa da uno dei più mitici DJ della Linin City, sto parlando di Nicola Cervelli. Ma ecco, adesso passiamo invece a un gruppo funkettone, tanto per ribadire il concetto di quello che è Uptown Rockers, cioè una trasmissione veramente trasversale, un programma radiofonico che racchiude tutta la musica espressa su vinile negli ultimi decenni. E sto parlando di un gruppo interamente, quasi interamente formato da bianchi, anche se il loro suono è veramente un black funk. Average White Band, questo pezzo si intitola Feel No Frit, è del 1979 e ascoltatelo intensamente perché è veramente bello. Friend, my good friend. impazziti, ci siete ancora? State già ballando? Se non siete usciti di casa a causa del freddo cane che è imperversa, diciamo, nella nostra penisola, sulla nostra penisola. Questo era Feel No Fret di Average White Band e adesso andiamo ancora avanti sempre con una sonorità funk. Sto parlando di Paul Jackson, Benny Maupin, Bill Sumner e Mike Clark. Questi erano gli Adantars, ma soprattutto erano il gruppo del mitico Herbie Hancock, che qui vi propongo con un pezzo d'annata del 1975 dal titolo Spankalee. Thank you. Uptown Rockers ancora in streaming, e queste erano le note di Herbie Hancock e le sue magnifiche tastiere, qui accompagnato dagli Ad Antars, Bill Summers alle percussioni, Paul Jackson al basso, Benny Maupin al sassofono e Mike Clark alla batteria. Disco datato 75, è uscito per la CBS, questa è una stampa italiana, e mentre la mia voce viene accompagnata dallo splendido sassofono di Eddie Harris, e adesso vi vado a presentare la prossima tune, la prossima song. Questo è un reddice di Woodstock, sto parlando di Carlos Santana, disco scovato nelle mie giornate di digging nel negozio Gap Records di Via San Martino dal mitico Alemagna, per noi cultori del vinile un vero tempio. Andiamo a sentire Carlos Santana, scusate se sono molto veloce, ma voglio farvi sentire un po' di pezzi in più, un po' di tune ancora, prima di passare al solito mixatone. Questa è Uptown Rockers, come avrete capito se vi siete sintonizzati solamente ora, al microfono Drago DJ. Prossimo pezzo Carlos Santana, e subito dopo andiamo invece a scoprire un'altra perla del funk. Thank you. Carlos Santana con la song dal titolo Hope You're Feeling Better, tratta dal suo album Abraxas del 1970. E mentre ancora fa da sottofondo alle mie corde vocali lo splendido sax di Eddie Harris e della sua funk aroma, andiamo al prossimo pezzo, alla prossima tune. Si tratta di George Duke, un pezzo electro-funk per tutti gli amanti di quel funk di fine 70, inizio 80, pieno di effetti, effettistica varia. Infatti qui troviamo George Duke con le prese con i suoi strumenti, le sue tastierone, i suoi Moog, un Prophet, un'effettistica da con vari reverberi, flash e tanto altro. Il pezzo in questione è Ride on Love, datato, aspettate un attimo che sto facendo confusione con le cover degli album, datato 1982, anche qui CBS, è l'etichetta che stampa questo vinile. E dicevo, per gli amanti dell'electro funk, questo è il pezzo che dedico. Spero che abbiate passato tutti un buon Natale. Questa è l'ultima puntata dell'anno. Dopo questa song, il pezzo a sorpresa, il solito ultimo pezzo che vi regalo. Ascoltate Ride on Love. questo era George Duke con Ride on Love. Siamo arrivati in fondo, quindi vi auguro a tutti un buon finale dell'anno del 2010. Noi ci rivediamo l'anno prossimo, come al solito ogni mercoledì dalle 22 con replica la domenica alle 21. Questa Uptown Rockers, Drago DJ, ultimo pezzo e dopo mixatone. Ecco a voi Chico Snap con Stammi Lontano. Non c'è amore per chi resta fuori. Ah, levami le mani dagli occhi, adesso lasciami vedere. Mi sono cagato la minchia, non ne voglio più sapere di tutte le stronzate che mi tiri. Tu dici resto a casa e invece te la giri. Tu miri davvero molto in alto quando spari. Magari esci dalla mia vita, siamo pari. Sembri un gufo quando parli troppo. Io metto dentro e quando è pieno scoppio all'occhio. Ne fa stanno il suo ma non si mette più in ginocchio. Festami la coda, vedo doppio cidone. Sono io nei panni del guaglione. E so ben io qual è la situazione che mi vivo. Quando giro per la strada faccio quel che faccio per svoltare. Un impustere è quello che devo fare per svoltare. Ma tu mi vieni a insegnare a parlare e fai la voce grossa. Ma quando sei qui con me non fai una mossa e parli come un boss mafioso. E ti fai il viaggio che ne fa sia geloso. Ma ti hanno illuso, confuso. Picchia pure, picchiami forte, tanto non accuso. E lascia che io faccia le mie storie da solo. Guarda come vado con la rima, prendo il volo, un salto lungo. E mi poleggio sul tempo mentre scendo. E tiro in merda, ma merda non ne prendo. Senti bene. Senti bene. Sentimi sul boom, chak chak boom, mi riprendo, mi muovo, faccio un suono nuovo che provo, dai DJ Graf qui con ne fa rispetto, dedico questa rima ai miei fratelli, non smetto, però ho dei pensieri nella testa strani, che non mi mollano per quanto smani, per quanto provo, tornano, ritornano e non mi lasciano, e l'unica cosa che so è che non posso più fidarmi di nessuno, perché nessuno mi deve tirare scemo, con storie in cui non credo, se non credo non ce n'è. Ne fa beat è qui, fatevi un giro lontano da me se mi vedete. E quando vi incontro per la strada sorridete. Ma siete fiacchi e lo sapete, volete per forza capire. Ne fa questa cosa, ve la deve proprio dire. In faccia parla come mangia, la tavola apparecchiata, la rima creata, diffusa, improvvisata da un cronista pirata di strada. Un cane sciolto e con il microfono in mano vado via di molto. E ho già risolto il contrasto di opinione, fratello qui presente, guaglione. Non posso darti ascolto quando sono in trasmissione. Ti accavo, se vuoi un consiglio sta a sedere giù, da bravo.